Storiacce di Raffaella Calandra. Durante una separazione un po' conflittuale sono arrivato a un punto che neanche io avrei mai immaginato di arrivare. Sono rimasto senza lavoro, ho avuto lo sfratto dal giudice, dall'ufficiale giudiziario, quindi io sono più di 20 giorni che non ho casa e non ho neanche più una famiglia. Non posso neanche vedere i miei figli perché non avendo un luogo consono per vederli non posso vedere. E è successo questo. Una rivoluzione culturale giudiziaria perché tutto questo non succeda più. Perché non ci siano più assegni milionari dopo un divorzio, perché il matrimonio e la separazione non sia più inteso come ascensore sociale da alcuni, perché non si ripetano più storie come questa, di padri separati e rovinati dal pagamento di alimenti per l'ex consorte e i figli. Mira a tutto questo il provvedimento legislativo a cui si lavora, a far diventare più leggero l'assegno del divorzio e a riportare equità. Perché se la storia di Marco Del Noce, ex comico di Zelig, passato dalla ribalta alla vita in un'auto è ormai nota a tutti, sono tantissimi i casi di padri separati che hanno vissuto analoghe odissee ed è qui che punta a intervenire una legge su cui si lavora ed è da qui che parte questa puntata di Storiacce. Praticamente la mia compagna all'epoca ha sfruttato questa occasione per chiedermi ulteriormente un aumento della retta mensile, cioè per succhiarmi anche quello che non potevo dare. Quante storie come questa abbiamo sentito tutti noi? Quante storie più o meno eclatanti, più o meno famose ci sono state di uomini, il più delle volte, spolpati da ex coniugi a cui durante la separazione venivano riconosciuti assegni milionari e in euro. Uno dei più celebri è senza dubbio quello di Silvio Berlusconi e Veronica Lario, ma a maggio è stata la Cassazione ad aprire un varco ad un cambiamento radicale, a stabilire che il matrimonio non va più inteso come sistemazione definitiva, scrive. E se questa era la pronuncia per un altro caso celebre, il divorzio dell'ex ministro Vittorio Grilli e l'imprenditrice Lisa Lowenstein, la pronuncia della Cassazione ha tracciato il solco di un cambiamento radicale e generalizzato, raccolto da altri tribunali sparsi in Italia e tradotto dalla Presidente della Commissione Giustizia della Camera, Donatella Ferranti, del PD, in una proposta di legge di cui ora si discute. Questa legge prende atto di un'evoluzione della giurisprudenza, cioè una giurisprudenza che per oltre 20 anni si era attestata sull'assegno divorzile come un assegno che dovesse in qualche modo conservare e mantenere il livello di vita matrimoniale, che in realtà poi ha avuto un cambiamento nell'ultima sentenza della Cassazione. Però ci è parso, questo è anche un po' il frutto di un monitoraggio che abbiamo fatto su alcune sentenze di merito, dei giudici di merito, che a questo punto sia necessario un intervento del legislatore per individuare forse dei parametri più adeguati al nuovo tessuto sociale. Ecco, possiamo dire che uno degli obiettivi, diciamo, di questa legge è anche quella di evitare in qualche modo degli abusi? Sì, un'esigenza di certezza, al tempo stesso anche di giustizia e di equità. Non ci devono essere rendite di posizione, al tempo stesso è stato giusto superare quel concetto che la giurisprudenza ha portato avanti per tanto tempo, dove appunto si diceva che anche dopo il divorzio si dovesse in qualche modo con quell'assegno garantire quel tenore di vita che si era avuto durante la vita matrimoniale. Ora si vuole invece però evitare che si vada all'effetto opposto. Quindi non più il reddito precedente, ma valutare l'effettiva e concreta situazione economica dei coniugi al momento dello scioglimento del matrimonio, però valutare anche il rapporto matrimoniale e al tempo stesso anche l'impegno di cura personale dei figli minori o disabili che l'uno ha svolto, la mancanza eventualmente anche di un'adeguata formazione professionale che un coniuge ha avuto come conseguenza di una scelta fatta insieme per adempiere ai doveri della famiglia. Cioè il caso soprattutto, diciamo, delle mogli che spesso, diciamo, rinunciano a volte alla carriera per accudire o per, diciamo, per portare avanti e adempiere alle esigenze familiari, soprattutto quando ci sono dei problemi specifici. Uno dei due fa delle rinunce e magari dopo 20 anni di questo rapporto matrimoniale si trova che quella sua formazione professionale, quelle opportunità non ci sono più. Ecco, quindi possiamo dire che questa legge in qualche modo mira a fare un po' ordine in un settore. A riequilibrare, dare ordine e individuare dei criteri più attuali anche alla società, perché la legge è del 70, l'evoluzione è stata giurisprudenziale, la stessa giurisprudenza sta cambiando volto, ma non è univoca, quindi questo può creare anche incertezza nei confronti dei cittadini. Una riforma legislativa, dunque, che potrebbe essere una rivoluzione culturale e giudiziaria, che rispecchi i cambiamenti di una società che non è più quella di una volta, dove si punta a fare un buon matrimonio, dove cioè ci si sistemasse per tutta la vita, ma dove invece l'unione è valutata come atto di libertà e di autoresponsabilità. Questo scrivono gli Ermellini. E questo, fuori dal lessico giudiziario, nella vita concreta significa che l'assegno dopo il divorzio resta, ma diventa più leggero, perché si tengono conto di tante cose e perché non c'è più l'obbligo a far conservare al coniuge lo stesso tenore di vita acquisito con le nozze. Ed è per questo che gli avvocati matrimonialisti plaudono al provvedimento in discussione, nella speranza che venga approvato entro la fine della legislatura, e anzi, loro vanno ancora più avanti guardando anche agli altri paesi europei. Gianetto Regassani, presidente degli avvocati matrimonialisti. In Francia l'articolo 270 sancisce che con lo scioglimento del matrimonio vengono meno gli obblighi al mantenimento. Ciò significa che il vento d'Europa sta facendo breccia anche nel nostro paese. Abbiamo bisogno di norme, quindi toccare la legge sul divorzio. Non si tratta di abolire l'assegno di divorzio, giammai. Si tratta semplicemente di parametrarlo in maniera diversa. Quindi superiamo sarà superato sicuramente il parametro del tenore di vita, ma non certamente il diritto del coniuge che non può provvedere al proprio mantenimento. Il mantenimento resta, però non ci saranno più assegni importanti, faraonici, con i 4 zeri, i 5 zeri. Finisce quell'epoca del nostro paese, resta quindi il principio della solidarietà, che quello non è negoziabile. Per cui è chiaro che però se il coniuge che non può provvedere a se stesso può dimostrare che comunque ha dato un grande contributo alla crescita professionale dell'altro, certo il giudice dovrà tenerne conto, e anche questo disegno di legge in buona sostanza dà un segnale di apertura, e credo questo sia giusto, cioè non possiamo trattare tutte le questioni allo stesso modo. Possiamo dire che in qualche modo lo spirito di questo provvedimento in qualche modo riequilibra anche quella che fino adesso sono state delle pronunce a lungo a vantaggio tendenzialmente della donna all'interno di una separazione? Sicuramente c'è anche questa componente, insomma è chiaro che quando si tratta di separazioni di gente molto ricca questi assegni non vanno a toccare particolarmente gli equilibri, ma quando si tratta di divorzi di persone con stipendi di 2.000 euro, 1.500 euro, indubbiamente questo fa la differenza. Tra l'altro non dimentichiamo che la sentenza della Suprema Corte di Cassazione è stata scritta da una donna. Unisce anche un po' un'immagine da anni 50 dell'Italia. Negli altri paesi esistono i patti prematrimoniali, allora lì gli assegni di divorzio vengono decisi prima di sposarsi. In Italia non è possibile. Probabilmente con il varo di patti prematrimoniali ogni coppia potrà definire su misura l'assegno in caso di rottura del matrimonio. Cioè, avvocato, lei dice che questo provvedimento apre alla possibilità di inserire anche i patti prematrimoniali? Io me lo auguro, perché l'Italia è l'unico paese in Europa che non ha i patti prematrimoniali, francamente questa cosa è inaccettabile. Cambiamenti che possono aprire dunque ad un'ulteriore significativa innovazione, come l'introduzione dei patti prematrimoniali e non solo. Ma come spesso succede, le sentenze sparse nei tribunali d'Italia già registrano modifiche profonde anche su altri aspetti del diritto di famiglia, adeguandosi così alla società che muta più velocemente, di sicuro, rispetto alle norme. Un vento diverso registrato dalle associazioni dei padri separati, come quella milanese, guidata da Ernesto Emanuele. Questi assegni milionari sono proprio degli sfruttamenti delle persone. Si trova il pollo molto ricco e lo si spreme fino all'inverosimile, quello che è successo a tante persone. Io ricordo tanti anni fa il figlio Rizzoli che è stato spremuto dalla moglie. Non è pensabile che una donna chieda 2 miliardi al mese, 2 milioni. L'impressione è che stia cambiando veramente il vento. Quando lei pensi che una persona molto nota che si è voluto tenere anche il cognome del marito, Marzotto, che era... Adesso è passata miglior vita, ma insomma, il marito aveva perso non solo i soldi, la villa in Sardegna, ma anche il cognome che lei voleva portare, il cognome Marzotto, perché lei era conosciuto come Marzotto e non come Fa con Dio. Finalmente la giurisprudenza mette ordine. Tutte queste sentenze sono tanti puntini uno dietro l'altro che portano a una giurisprudenza sulla famiglia molto diversa da quella che noi avevamo, anche perché poi la famiglia sta cambiando. Cioè. Quante cose negli anni sono cambiate proprio sulla famiglia, ed è lo stesso concetto di famiglia a non essere più lo stesso, non solo di 50 anni fa, a quando cioè risalgono le nostre leggi, ma è diverso anche rispetto a 20 o a 10 anni fa, ed ora i giudici cominciano ad emettere sentenze diverse rispetto alla consuetudine, anche sull'affido dei figli o sul tempo che i figli devono passare con i genitori separati, perché appunto, come già dicevamo, come spesso accade, le novità arrivano nelle aule dei tribunali insieme alla vita vera più velocemente di quanto invece vengano poi recepite dalle leggi, e da qui ripartiamo nella seconda parte di Storiacce. Storiacce. Nel 2013, il 5 novembre, mi sono separato con la mia ex moglie. Il 1 febbraio 2014 dovevo lasciare l'appartamento. È facile dire lei deve uscire casa, come ha fatto il giudice. Il 1 febbraio deve uscire di casa, e dove vado? Io gli ho risposto così al giudice, dove vado? Vado a finire in macchina. E il giudice cosa mi ha detto? Dice non posso scrivere in macchina, quindi si deve trovare una soluzione. L'unica possibilità era la macchina. Io in macchina ho dormito effettivamente quasi 2 giorni. Partiti da qui, dalla storia di Antonio, che è come quella di Marco Del Noce, passato dal palco di Zelig alla macchina, che è come quella di molti altri padri qualunque sparsi per l'Italia, finiti sul lastrico anche a causa di una separazione particolarmente onerosa e il più delle volte conflittuale. Dal pagamento di un assegno pesante che doveva servire a garantire lo stesso tenore di vita all'ex coniuge. Ma quella che per decenni è stata la filosofia che ha regolato le pronunce dei giudici in caso di separazioni, ora sta per andare in soffitta, dopo una sentenza della Cassazione, come abbiamo sentito nella prima parte di Storiacce, e dopo una proposta di legge che potrebbe rivoluzionare il diritto di famiglia e renderlo più vicino alle attuali caratteristiche di una società nuova, perché il matrimonio non va più inteso come sistemazione definitiva, ha scritto la Suprema Corte, né come ascensore sociale. Per cui in caso di separazione ora le valutazioni che si fanno sono ben più ampie, novità che potrebbero riguardare dunque la vita di tutti noi davvero e di tutte le persone che hanno dovuto affrontare un divorzio. Ma andiamo a sentire in che modo potrebbero cambiare queste leggi con la Presidente della Commissione Giustizia della Camera, Donatella Ferranti, che sta portando avanti il provvedimento. Non deve essere uno strumento per acquisire delle rendite a vita, magari ecco soltanto perché si era nel frattempo, cioè precedentemente nel rapporto matrimoniale, si aveva un certo tenore di vita che si vuole ad ogni costo mantenere. Cioè, tant'è vero che abbiamo previsto anche un'ipotesi in cui, ad esempio, la durata dell'assegno per la ridotta capacità di reddito di uno dei due coniugi sia temporanea, cioè perché il giudice potrebbe valutare che il coniuge, chiamiamolo più debole, ha una situazione attuale ma ha le capacità per rimettersi sul mercato. Ci può essere nell'ambito di quel rapporto uno dei due che ha sacrificato qualcosa all'altro o alla famiglia. In qualche modo deve essere equilibrata la situazione. Diciamo così, si rivoluziona anche il modo stesso di mettere mano alla giustizia che regola la separazione, perché in qualche modo diciamo anche no, la vita, la società di oggi è fatta da due persone che lavorano e che quindi se hanno entrambi un reddito, questo significa che la moglie non percepirà alcun tipo di assegno da parte del marito da cui si separa? Potrebbe non riceverlo se le situazioni, se il giudice valuta che non ci sono delle situazioni tali da dover riconoscere a quella moglie o a quel marito un contributo particolare che è stato dato alla conduzione familiare. Come spesso succede, come abbiamo già detto, i cambiamenti più profondi, quelli che poi vanno a incidere nelle società o come in questo caso rispecchiano una società già mutata, avvengono in silenzio. Quindi quello di cui stiamo parlando in questa puntata di Storiacce potrebbe essere l'inizio di una riscrittura profonda di una parte fondamentale del diritto di famiglia, quella che riguarda il modo stesso di intendere per le sentenze e per le leggi il matrimonio o le unioni civili. E si potrebbe avvicinare anche la possibilità di introdurre in Italia i patti prematrimoniali che, tra l'altro, secondo l'avvocato Gianetto Regassani, presidente degli avvocati matrimonialisti, ridurrebbe anche il numero di cause. Potremmo deflazionare il carico di lavoro dei tribunali e potremmo anche stabilire all'inizio che la coppia possa farsi un assegno come ritiene prima di sposarsi e decidere della propria vita matrimoniale, non solo per quanto riguarda l'assegno ma per tante altre cose, come meglio crede. Invece in questo momento nel nostro paese, quando ti sposi devi sottostare alle regole del codice civile e non puoi cambiarle più di tanto. Credo che negli altri paesi c'è la possibilità per la coppia di confezionare un matrimonio su misura, anche perché dobbiamo ricordarlo, al di là delle ipocrisie italiane, che il matrimonio è un vero e proprio contratto a tutti gli effetti ed è giusto quindi poter introdurre nel nostro paese i contratti prematrimoniali, visto che esistono i patti di convivenza, cioè i conviventi possono fare i patti ma gli sposati no. Credo che il disegno di legge d'Alessandro Morani, che in questo momento è fermo alla Commissione Giustizia, potrebbe essere ripreso, creare delle norme ad hoc, caso per caso, per il proprio matrimonio. E questo sarebbe un grande passo avanti e potremmo evitare tanti litigi e tanti inutili cause in tribunale. Avvocato, possiamo dire che con questo provvedimento, se andrà ovviamente in porto, visto che siamo sulla finire della legislatura, si manda un po' in soffitta l'idea di un matrimonio come business? Assolutamente sì, era arrivato il momento di cambiare completamente il diritto di famiglia, perché questa sentenza di maggio scorso, adesso confermata da questo disegno di legge, cambia il diritto di famiglia, l'approccio al matrimonio come un affare, come una sistemazione economica e sociale, un'arrampicata sociale. Non va bene così. Il matrimonio è una scelta d'amore e a volte di coraggio, ma non può essere una sistemazione economica, non possiamo accettare rendite parassitarie, assegni a 5-0 che a volte sono veramente immorali, considerando poi la situazione difficile che sta attraversando il paese. Avvocato, ma sbaglio o restano esclusi, diciamo, i conviventi? I conviventi morex soli, sesso diversi, non è previsto un assegno di mantenimento se non quello limitato a una sorta di assegno alimentare e comunque che dura quanto è durata la convivenza, quindi è un assegno a tempo. Non si può parlare di un assegno di mantenimento vero e proprio, c'è una sorta di assegno quasi alimentare, insomma. Sì, però considerando che i dati dell'Istat e le fotografie della società italiana dicono che ci si sposa sempre di meno e che la maggior parte delle coppie in realtà appunto vivono more uxorio, allora esiste forse un vuoto, diciamo, normativo anche per regolare questo tipo di relazioni, fatto salvo, diciamo, i vincoli che invece restano per il mantenimento dei figli anche in caso di separazione? I conviventi more uxorio di sesso diverso o dello stesso sesso, quindi possono tranquillamente andare dal notaio o dall'avvocato e stipulare i cosiddetti patti di convivenza. Se stipuli il patto di convivenza puoi anche stabilire un assegno di mantenimento piuttosto robusto, ma devi sempre andare dal notaio o dall'avvocato. Se non c'è questo accordo, quindi tutto rimane così, quando finisce la relazione finisce praticamente tutto, salvo il principio della solidarietà di riconoscere all'altro, se si dimostra l'effettiva convivenza, una sorta di assegno alimentare che dura quanto è durata la convivenza. Questa norma prevede anche un punto che è un po' più controverso nel caso in cui ci sia una separazione, un divorzio con addebito. Se tu hai tradito, quindi hai commesso un'infedeltà coniugale, sei stato violento, sei andato via di casa, hai affamato la famiglia, quindi il giudice attribuisce a te la responsabilità del tracollo del matrimonio, tu non avrai comunque diritto al mantenimento. Quindi praticamente l'addebito travolge qualsiasi principio nuovo che si sta varando nel nostro paese. È una punizione vera e propria, una sanzione gravissima. Perdi il diritto al mantenimento e perdi i diritti successori. Siamo partiti dai casi di padri finiti a dormire in auto perché stritolati dalle spese anche della separazione. Stiamo arrivando invece ad uno scenario con la possibile introduzione di patti prematrimoniali, passando attraverso sentenze e disegni di legge che di fatto potrebbero modificare in profondità il modo di intendere e di regolare i rapporti di coppia e innanzitutto il matrimonio. Per la legge è una corsa verso l'approvazione, ma nel frattempo, come abbiamo già detto, molto è cambiato. È cambiato già l'assegno, ad esempio, dopo un divorzio, ed è cambiato il concetto stesso del tempo da passare con i figli da parte dei genitori separati. Ma questo, ad esempio, resta un fronte su cui lavorare ancora molto, come sollecita l'Associazione dei Padri Separati di Milano, che tra l'altro sta lavorando ad un protocollo specifico per queste cause. Il presidente Ernesto Emanuele. Non è pensabile, per esempio, che la Franzoni, che ha ucciso suo figlio, lo veda più di un padre in carcere o di un padre non in carcere. Insomma, è chiaro che sta cambiando tanto. Io ricordo una volta, per esempio, che andavamo a pranzo da amici e andavamo dal pasticcere. Mio padre pagò, ho preso il pacchetto, poi per strada mia madre disse: non è dignitoso che tu porti il pacchetto, lo porto io. Oppure ci si meravigliavano molto quando i miei genitori si meravigliavano quando i reali di Svezia lui tirava la carrozzina, insomma. Queste sono chiaramente immagini e, diciamo, ricordi di un'era che ormai non esiste più. Non esiste più, ecco, ma sta cambiando il mondo. Ecco, e quindi io ritengo che questa giurisprudenza incomincia ad adeguarsi alla realtà, sì, che cos'è anche la società italiana. Una volta c'era l'uomo che dominava, però dopo siamo andati dall'altra parte troppo in fretta. Pensate anche voi che la bilancia si sia troppo sbilanciata ad un certo punto a favore delle donne durante le separazioni? E cosa pensate di queste sentenze e di questo disegno di legge che di fatto alleggerisce l'assegno in caso di divorzio? I fronti però su questo tema sarebbero tantissimi e se avete testimonianze dirette scrivete una mail a storiacce@radio24.it oppure sulla pagina Facebook di Storiacce. Su Twitter mi trovate come Raff Calandra. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate, il sito è radio24.it. Ciao a tutti, a presto da Raffaella Calandra.